Samuele disse a Saul: «È stato il Signore a mandarmi a consacrarti re sul suo popolo Israele. Ora dà ascolto alle parole del Signore. Così dice il Signore degli eserciti: voglio vendicare quello che Amalek ha fatto a Israele quando gli sbarrò la via mentre usciva dall'Egitto. Ora va e colpisci Amalek. Vota all'anatema tutto quello che gli appartiene. Non aver pietà di lui. Uccidi uomini e donne, ragazzi e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini». Saul convocò il popolo e lo passò in rassegna a Telaim, 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul avanzò fino alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. Saul disse ai Cheniti: «Separatevi, allontanatevi di mezzo agli Amaleciti, affinché io non vi accomuni a loro. Tu, infatti, usasti misericordia a tutti i figli di Israele quando essi salirono dall'Egitto. Così i Cheniti si separarono dagli Amaleciti». Saul colpì Amalek a partire da Avila in direzione di Sur, che è ad oriente dell'Egitto. Catturò vivo Agag, re di Amalek, mentre passò tutto il popolo a fil di spada. Saul e il popolo risparmiarono Agag e la parte migliore del gregge e dell'armento, gli animali grassi, gli agnelli e ogni cosa buona. Questi non li vollero votare all'anatema. Invece ogni cosa disprezzabile e magra la votarono all'anatema. Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele: «Mi pento di aver costituito re Saul, poiché egli si è allontanato da me non eseguendo i miei ordini». Samuele ne ebbe sdegno e implorò il Signore tutta quella notte. Al mattino Samuele si affrettò ad andare incontro a Saul. Fu data questa notizia a Samuele: «Saul è giunto a Carmel, ed ecco che si è eretto un trofeo. Poi, proseguendo la strada del ritorno, è sceso a Galgala». Quando Samuele arrivò da Saul, Saul gli disse: «Benedetto tu dal Signore, ho eseguito l'ordine del Signore». Ma Samuele disse: «E cosa è questo belato di gregge nelle mie orecchie e questo muggito dell'armento che sto udendo io?» Saul rispose: «È stato riportato da Amalek, perché il popolo ha risparmiato il meglio del gregge e dell'armento per poterlo sacrificare al Signore tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato all'anatema». Samuele disse a Saul: «Permetti che ti annunzi quello che mi ha detto il Signore in questa notte». Gli rispose: «Di pure». Samuele soggiunse: «Tu, benché piccolo ai tuoi propri occhi, non sei forse il capo delle tribù di Israele? Il Signore ti ha consacrato re su Israele. Il Signore ti ha inviato a una spedizione dicendo: va, vota all'anatema quei peccatori di Amaleciti e fa loro guerra finché non siano sterminati. Perché non hai dato ascolto alla voce del Signore, ma ti sei gettato sulla preda e hai compiuto ciò che è male agli occhi del Signore?» Saul rispose a Samuele: «Ma sì che ho dato ascolto alla voce del Signore. Mi sono messo per la via per la quale il Signore mi ha mandato. Ho riportato Agag, re di Amalek, ma gli Amaleciti li ho votati all'anatema. Il popolo ha prelevato dalla preda pecore e buoi, il meglio dell'interdetto, per sacrificarlo al Signore tuo Dio a Galgala». Samuele rispose: «Forse il Signore si compiace degli olocausti e dei sacrifici come dell'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, l'obbedienza è migliore del sacrificio, la docilità migliore del grasso dei montoni. Sì, un peccato di divinazione è la ribellione, e vano culto e terafim è l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato dall'essere re. Saul disse a Samuele: ho peccato perché ho trasgredito il comando del Signore e le tue parole, poiché ho avuto paura del popolo, ho dato ascolto alla sua voce. Ma ora ti prego, sopporta il mio peccato e ritorna con me, che io faccia adorazione al Signore. Ma Samuele rispose a Saul: non ritornerò con te. Poiché hai rigettato la parola del Signore, il Signore ti ha rigettato dall'essere re su Israele. Samuele si voltò per partire, ma egli afferrò un lembo del suo manto che si strappò. Gli disse allora Samuele: oggi il Signore strappa la regalità di Israele da dosso a te e la dà a uno più degno di te. La gloria di Israele non mentisce e non si pente, perché egli non è un uomo da doversi ricredere. Saul esclamò: ho peccato. Ora, ti prego, rendimi onore davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele. Ritorna con me, perché io faccia adorazione al Signore tuo Dio. Samuele ritornò insieme con Saul, e Saul fece adorazione al Signore. Samuele disse: conducetemi qua Agag, re di Amalek. Agag andò da lui gongolante e disse: veramente se n'è andata l'amarezza della morte. Ma Samuele disse: come la tua spada privò di figli le donne, così tra le donne tua madre sarà priva del figlio. Poi Samuele sgozzò Agag davanti al Signore a Galgala. Samuele andò poi a Rama, mentre Saul risalì alla sua casa a Gaba di Saul. Samuele non volle più vedere Saul fino al giorno della sua morte, perché Samuele faceva lutto su Saul, e il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele.